Buonasera a tutti, vi ringrazio dell'invito. Sembrerebbe che sono il più giovane di tutti. Ma durante il mio percorso da agricoltore ho visto tante cose cambiare. Da prima coltivare la terra, adesso ci siamo trasformati ad aiutarla a dare un nuovo prodotto. Noi abbiamo l'azienda agricola e agrituristica. Stiamo valorizzando anche le zone limitrofe, adesso stiamo scoprendo quello che sono gli unici fontanili ancora nella nostra zona. Gli unici perché nelle altre zone non ce ne sono più. Stiamo riscoprendo quelli che sono i fili, la vegetazione che circoscrive il nostro territorio. E quello che ho notato ultimamente è che dei molti giovani si stanno avvicinando all'agricoltura, mi stanno facendo molte domande quando arrivano in cascina per come viene prodotto il formaggio che tutti i giorni faccio, come si coltiva il terreno, come si semina nell'orto, come si munge una mucca. Queste cose sono uno stimolo tutti i giorni per portare avanti il nostro lavoro, quello dell'agricoltore. Parlando della terra trema, è vero, c'è stato un riscontro molto positivo sempre per questo fatto della conoscenza del prodotto. La gente viene, chiede, non è più prendo e vado via. Mi fermo, parlo con l'agricoltore, chiedo come nasce il prodotto, con che stimolo lo fa tutti i giorni questo nuovo prodotto. Quello che mi sento di chiedere, pensando anche al filmato che abbiamo visto prima, le parole che sono state dette durante questa serata, è un allacciamento tra le cascine. Alcune cascine come la nostra è un po' più isolata. Non ci sono percorsi ciclabili che arrivano direttamente da noi. Molta gente mi chiede come faccio ad arrivare a Morimondo, un'altra bellissima abbazia che abbiamo qui vicino, ma che nessuno sa percorrere nelle vie agricole. Per cui quello che mi chiede è questo, di aiutare più il collegamento tra le varie cascine, valorizzando appunto il territorio, valorizzando adesso questo nuovo fatto dei fontanili che stiamo riscoprendo grazie al comune di Ozero e a tante altre persone. Basta.